Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, Italia promossa con riserva, come già ricordavano i nostri GR24, è arrivato infatti l'atteso giudizio di Bruxelles non solo sull'Italia, ma su tutte le manovre finanziarie o legge di stabilità, come si chiama adesso da noi, dei vari paesi dell'euro. Perché dico che passa con riserva? Perché l'Unione Europea ha avvertito che è a rischio di non conformità con il patto di stabilità, essendoci nel 2016 un rischio di significativa deviazione dall'aggiustamento verso il pareggio di bilancio. Cioè, dice l'Europa, e poi ne parleremo, attenzione, i rischi, la fragilità di questa manovra potrebbero portare nel 2016 a un dato del deficit diverso da quello stimato, e quindi che va a allontanarsi rispetto a un deficit pari a zero, che è l'obiettivo che l'Unione Europea si pone. Ci sarà quindi una nuova valutazione in primavera, uno potrebbe dire rimandata, no, perché approvata con riserva. E l'Unione Europea vuole capire anche le necessarie misure per assicurare il rispetto degli obiettivi. Ricordo che l'Italia ha già ottenuto da Bruxelles una flessibilità dello 0,4% del PIL, e cioè siamo sostanzialmente intorno ai 7-8 miliardi di euro di maggiore flessibilità, rispetto a un massimo di flessibilità che è dello 0,5%, quindi noi abbiamo da giocarci poco ormai, solo uno 0,1%. Nel 2016 noi chiediamo all'Europa di aggiungere questo 0,1 e quindi avere sostanzialmente un margine di manovra alla fine dello 0,3% attivando la clausola degli investimenti. Perché lo dico? Perché l'Europa dice attenzione, bisogna capire che questa flessibilità non vada per ridurre le tasse della casa, questo a noi non è nelle nostre indicazioni, e poi vi arriveremo. Poi c'è il fronte dell'Europa, di Bruxelles sul resto d'Europa, e qui c'è la posizione francese. Ora lo dico con la massima, con il massimo rispetto della tragedia che si è verificata venerdì notte. Allora, la Francia già prima della tragedia aveva detto non avrebbe rispettato il livello del 3%. Lo dico perché la dichiarazione del Premier Valls oggi, che dice Parigi sarà costretta a non rispettare gli impegni di bilancio europeo, può essere letta come se Parigi, dopo gli attentati per le misure di sicurezza e i costi di queste misure di sicurezza, si troverà a non poter rispettare il tetto. No, la Francia già l'avrebbe superato. Diciamo che se vogliamo interpretare correttamente Valls, non lo rispetterà ancora di più, visto che già era previsto che non lo rispettasse il tetto, e quindi non lo rispetterà ancora di più per via delle spese ancora non quantificabili. Infatti risponde Moscovici, dice la questione non è in questione di dare più tempo alla Francia, perché il bilancio francese è pienamente conforme, non stiamo riflettendo assolutamente per dare un ulteriore tempo. La Commissione valuta le situazioni con cuore e umanità, e cioè dice attenzione, insomma, non è in discussione quelle che saranno le spese rispetto al tema terrorismo. E questo riguarda la Francia. Gli altri paesi, sostanzialmente soprattutto Germania e paesi del Baltico, e quindi Estonia e Lituania, hanno presentato le migliori leggi di stabilità, cioè quelli più conformi a quanto chiede l'Europa. Questo sarà uno dei temi principali della puntata. Torneremo a occuparci, ahimè, di un caso molto grave, e mi riferisco al suicidio, per quello che abbiamo sempre detto, dell'ex capo ufficio stampa di quello che era a quel tempo capo della comunicazione della Monte dei Paschi di Siena. Mi riferisco a David Rossi, alcuni di voi lo ricorderanno, deceduto il 6 marzo del 2013 dopo essere caduto dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni in una notte su cui non si era mai fatta molta chiarezza, anche perché non c'erano dei biglietti, la famiglia avanzava moltissimi dubbi, per essere buoni, sul fatto che si fosse suicidato, e appunto l'assenza di altre indicazioni. Ora, il procuratore della Repubblica di Siena, Salvatore Vitello, ha deciso di riaprire le indagini sulla morte di David Rossi, dopo la richiesta presentata dal difensore di Antonella Tognazzi, che è la vedova di Rossi. Si ipotizza che possa essere stato ucciso da almeno due persone. Questa è la tesi sostenuta da tre nuove perizie che il legale ha presentato e che hanno portato il procuratore a riaprire l'inchiesta. Anche di questo parleremo. Parleremo di una novità che, se ho ben capito, si cerca di introdurre nella riforma Madia della pubblica amministrazione, fondamentale. Sapete quanto teniamo al tema dell'efficienza della pubblica amministrazione e quindi la possibilità che i dirigenti potrebbero avere di licenziare i dipendenti non solo per procedimenti disciplinari, ma anche in caso di scarso rendimento, che sarebbe una categoria assolutamente nuova nella pubblica amministrazione. I dirigenti avrebbero più poteri di intervento e procedure semplificate. In teoria già la riforma Brunetta portava queste possibilità, solo che sono rimaste sulla carta, non si sono mai attuate. Pensate che nel 2013 su 7.000 procedimenti avviati nella pubblica amministrazione solo 219 si sono conclusi con il licenziamento, in 99 casi per assenze ingiustificate, in 78 a causa di reati, in 35 per negligenza e inosservanze contrattuali. La maggior parte dei licenziamenti si è concentrata sulla scuola, 81. Le amministrazioni comunali hanno avuto solo 7 licenziamenti in tutta Italia. Ora, insomma, io capisco che li avranno selezionati tra i migliori, ma sono un po' pochini se vogliamo applicare la regola, diciamo, anche dello scarso rendimento, ma soprattutto dei provvedimenti disciplinari. Ne parleremo tra circa mezz'ora. 349-238-6666 per i vostri sms ed è anche il numero per WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Sto criticando i francesi, ho detto solo che bisogna stare attenti a leggere bene la dichiarazione di Valls, perché con quello che è successo potrebbe sembrare che la Francia dica adesso non ce la faremo a rispettare. La Francia già l'anno scorso non rispettò il tetto del deficit, quindi bisogna anche, non giochiamo sulle tragedie, per favore. Comunque vi arriveremo. Partiamo adesso dalla borsa, che complice un euro in indebolimento a 1,0640 e un petrolio stabilmente in calo, diciamo a meno 2% anche oggi a 40 dollari al barile, 40,9 dollari al barile. Le borse ne prendono atto e si va ad acquistare, non solo a Milano più 2,15, anche a Parigi più 2,70, Francoforte più 2,20, Londra più 1,80, l'America più 0,45%, quindi è un rialzo soprattutto europeo che vede da noi Finmeccanica guadagnare il 4,90, Buzzi Unicem il 4,20, Prismian il 3,60, Ferragamo il 3,30, Atlantia più 3,1 come Mediaset e Generali, Eni più 3% come Mediolanum, il 2,90 lo guadagna Fiat Chrysler, il 2,80 Tenaris, il 2,5% è il rialzo di Enel ed ST Microelectronics, ma anche di Unipol. Il 2% invece è quello che portano a casa in questo momento Yux, Net-a-Porter, Telecom Italia e Anima Holding, ma anche Mediobanca e Azimut. Di negativo non c'è praticamente nulla, eccezione fatta per il Monte dei Paschi che perde l'1,22%, Campari invariata, questo per quello che riguarda i titoli a maggiore capitalizzazione. Allora, vedo molti, un attimo di pazienza, vedo ancora molti messaggi. Comunque cercherò di rispondere anche a grappolo, diciamo, ai messaggi che arrivano su WhatsApp oltre che con gli SMS. Economia internazionale, dicevamo, rally delle borse dopo il petrolio basso e e anche l'euro debole. C'è un ragionamento un po' cinico, lo dico subito, che fanno comunque le borse dopo gli attacchi terroristici di venerdì scorso a Parigi. Insomma, ragionano sui settori aerospaziale e della difesa. Non è un caso che Finmeccanica guadagni anche per accordi, ma non solo. Guadagna Airbus, guadagna Capgemini, Dassault, cioè strutture che producono software o aerei veri e propri. Sulla reazione delle borse si concentrano i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore, quelli trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. Oggi la firma è del vice direttore Alessandro Platerotti. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Platerotti. Vi ricordate Alberto Sordi, finché c'è guerra c'è speranza? Beh, insomma, è quello che sta accadendo nuovamente in borsa. Gli attentati di Parigi, le tensioni internazionali, la mobilitazione contro il terrorismo non hanno depresso i titoli, ma hanno soprattutto dato una spinta straordinaria ai titoli della difesa, ai titoli del settore farmaceutico, ai titoli delle telecomunicazioni. Sono questi i tre settori che stanno dietro il rimbalzo dei mercati finanziari e delle borse internazionali. Ma per quale motivo? Beh, insomma, tutto si spiega. Da una parte, se guardiamo i titoli della difesa, la scommessa dei mercati è quello di un aumento degli investimenti e della spesa pubblica un po' in tutta Europa per aumentare le difese sia ai confini che la sorveglianza elettronica. Non a caso è quello lì che i titoli di Bae Systems, il colosso inglese della difesa e dell'elettronica, più 5% in due giorni. Thales, gruppo francese, 69,90 il prezzo di chiusura, più 7% in due giorni. Ma anche la nostra Finmeccanica, più 8% in due giorni. Ma anche i farmaceutici, biotecnologici soprattutto. Sono due giorni che stanno correndo per quale motivo? Vaccini, la paura di possibili ritorsioni o guerre o comunque attentati che possano contenere delle armi chimiche fa sì che il mercato finanziario spinge i titoli di questo settore. Infine le telecomunicazioni, ci si muove meno, si telefona di più, internet, le telefonate, i collegamenti internazionali in questo momento stanno fiorendo soprattutto tra parenti ma anche tra amici, ma soprattutto in generale i viaggi d'affari sono stati tagliati di netto ad esempio dalle imprese americane per l'Europa e soprattutto per Parigi. Quanto durerà questa tensione? Beh, insomma, la questione è lunga ed è difficile da prevedere. Certo è che la borsa si sta posizionando per un lungo periodo di logoramento. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Sì, vedo che alcuni dicono, ma insomma, quanto cinica la borsa. Ho capito, ma è così, nel senso che il ragionamento fatto sulle compagnie di telecomunicazioni segue il ragionamento, come spiegava bene Alessandro Platerotti, che molte grandi società taglieranno, anche per motivi di sicurezza, è brutto dirlo, ma è così, le missioni o i viaggi di lavoro dei loro manager, faranno videoconferenze e quindi aumenterà il traffico di alcune compagnie telefoniche. Più, diciamo, stringente ragionamento invece sul fronte dell'aerospazio difesa. Insomma, qui uno può ragionare come vuole, ma non è che si può ascoltare e essere d'accordo con il premier francese che dice siamo in guerra e poi sperare che o pensare che la borsa non faccia un ragionamento. Se siamo in guerra andiamo a premiare i gruppi italiani, francesi e inglesi che producono armi. Anche la guerra si fa con le brioche, qualcuno dovrebbe capirlo anche a casa nostra ogni tanto. Andiamo avanti, dagli Stati Uniti dati assolutamente in linea con le attese, la produzione industriale rallenta leggermente, ma insomma i prezzi del consumo sono in linea con le attese, anche negli Stati Uniti migliora invece in Germania la fiducia degli investitori e... Per quello che riguarda la Grecia invece le istituzioni di Bruxelles e Atene hanno raggiunto un accordo sulle misure che mancavano al primo set di leggi per dare poi altri 2 miliardi dopo, che arriveranno dopo il voto di giovedì del Parlamento greco, 2 miliardi dall'Unione Europea. Faccio notare, visto che parlavamo di terrorismo, che noi ci siamo permessi anche il lusso di ragionare a maggio-giugno della possibilità che la Grecia uscisse dall'Europa, no? Così non basta, già abbiamo una Turchia che fa quello che vuole e non fa quello che dovrebbe fare, e lo diciamo in maniera molto chiara e molto netta, l'abbiamo detto anche ieri. Insomma, non è accettabile che la Turchia faccia parte della NATO e poi persegua interessi solo suoi, tra l'altro punendo più i curdi che i terroristi dell'ISIS. Ma dico, ci mancava solo una Grecia fuori dall'Europa, immaginate cosa sarebbe stato. Questa, dico, la follia, diciamo, ragionieristica, contabile dei tecnocrati di Bruxelles telecomandati dalla Germania. Andiamo avanti. Italia, oggi dati sul commercio con l'estero che torna positivo a settembre, più 1,6%. Questo cala purtroppo e si sente l'export fuori dall'Europa, meno 4,2%. Rallenta la Cina e la Russia continua a essere in crisi. Non a caso in Russia facciamo meno 28%, in Cina meno 9%. Bene invece tutta la parte europea, Gran Bretagna più 8, Spagna più 12, Germania più 2%, gli Stati Uniti più 18% come export italiano, Francia al palo meno 0,4, i paesi OPEC, te credo, con un petrolio che viaggia tra i 40 e i 45 dollari, anche i petrodollari valgono meno, o meglio incassano meno soldi dal petrolio, i paesi produttori meno 17%. Allora, restando in Italia, però sul settore bancario, mentre oggi si è saputo che Intesa San Paolo ha ceduto una quota del 5,7% che possedeva nella Banca d'Italia per un controvalore di 430 milioni di euro a una serie di enti, Intesa resta comunque la prima, o meglio, il primo azionista della Banca d'Italia con una partecipazione di circa il 30%. Oggi l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, ha diffuso i dati su sofferenze raccolte. Ora, nonostante le dichiarazioni roboanti di Patuelli di 3 settimane fa, ogni volta che lo ascolto penso di vivere in un mondo diverso, il presidente dell'ABI che dice no, le banche aumentano l'erogazione. Oh, i prestiti a famiglie e imprese hanno fatto meno 0,3 rispetto al 2014. Uno può dire non sono calati tanto, è vero, meno 0,3 è un calo marginale, ma siccome già erano calati molto nell'ottobre del 2014, si può dire che le banche non stanno aumentando i prestiti, o questo meno 0,3 lo trasformiamo in qualcosa di positivo, non so. I nuovi mutui, i mutui per le case, sono invece aumentati più 92%, quindi le banche stanno prestando soldi per nuovi mutui, anche perché lì c'è la garanzia dell'immobile, ma non stanno prestando più soldi, anzi sono rimasti ai livelli di un anno fa, a imprese e famiglie, non per comprare casa, che è l'esatto opposto di quello che chiedeva Mario Draghi quando ha fatto l'operazione TLTRO, no? Quando ha messo a disposizione decine di miliardi ogni mese alle banche dell'area euro perché riprestassero all'economia, cioè imprese e famiglie, ma non per i mutui. Ovviamente poi l'ABI dice insomma i prestiti delle famiglie e imprese saranno positivi, cioè cresceranno nella prima metà del 2016. Vediamo, quando li vedremo li commenteremo positivamente. Allora, 349-238-6666 per gli sms e per WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Partiamo col primo tema, la manovra, o meglio il giudizio di Bruxelles sulla manovra. In primo luogo la manovra italiana, poi passeremo alla manovra al giudizio sulle altre manovre degli altri paesi dell'area euro. Consideriamo il piano di riforme italiano importante dal punto di vista della qualità e la crescita sta tornando nel paese. In secondo luogo, l'Italia è potenzialmente l'unico paese che può ottenere la flessibilità su tutti i possibili capitoli, riforme strutturali, investimenti ed emergenza rifugiati. L'obiettivo da qui alla primavera 2016 è di verificare in quale misura di preciso sono state portate avanti le riforme strutturali in proporzione tale da giustificare 0,1 punti di flessibilità in più. Il Parlamento italiano voterà la legge di stabilità con le cifre contenute nella bozza ed elaborate dal Premier Renzi e dalla sua squadra. In seguito confronteremo la realtà con queste cifre. Solo allora vedremo se in base ai dati potremo accordare o meno le clausole di flessibilità previste. Possiamo o no andare fino al bout delle clausole di flessibilità previste. Questo è il giudizio del commissario europeo agli affari economico monetari Pier Moscovici, giudizio sull'Italia. E tra l'altro, poi ci arriveremo anche al vicepresidente della commissione Valdis Dombrovskis. Intanto ringrazio Dino Pesola del Sole 24 Ore. Dino, buonasera. Buonasera. Allora, poi arriviamo anche alle novità presenti in finanziaria, però insomma, dire la legge di stabilità viene promossa con riserva o rimandata ad aprile, quale preferisci? Ma forse promossa con riserva è quella più corretta, perché sostanzialmente c'è una via libera che mi sembra oggettivo ed è un via libera politico, laddove si riconoscono gli sforzi che il Paese sta compiendo obiettivamente sul fronte delle riforme soprattutto. E poi si prende tempo perché appunto lo rilevava Moscovici, poiché l'Italia è l'unico paese a chiedere peraltro anche l'attivazione della cosiddetta clausola degli investimenti. Beh, qui, come dire, c'è un implicito pregiudizio nelle parole di Moscovici, in parte anche giustificato, diciamocelo, visto e considerato il cronico ritardo e la cronica incapacità che il nostro paese ha di spendere i soldi che vengono dall'Europa, dai progetti cofinanziati dell'Unione Europea per quel che riguarda ad esempio gli investimenti infrastrutturali. E quindi si vuole vedere da qui ad aprile, marzo-aprile, quali progetti verranno presentati, con quale tempistica di realizzazione, e sulla base di questi verrà concessa la flessibilità che vale 4,8 miliardi, sono questa, non è poco, sono lo 0,3. Vabbè, ci fai la manovra sui mutasi. Ecco, su questo però, dopo il meteo, vorrei tornare con te, perché Bruxelles ha anche detto, attenzione, lo stop della TASI non è in linea con l'obiettivo fiscale, e poi il giudizio del vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, è stato un po' più duro di quello di Moscovici. Ora, va anche ricordato che Moscovici ha un approccio, posso dire, più keynesiano, più per la crescita e l'occupazione, meno per il rigore dei conti e il patto di stabilità, e Dombrovskis invece l'opposto. Infatti, quando furono messi, furono nominati i nuovi commissari, si disse: beh, il vicepresidente sarà il cane da guardia di Moscovici. Ricordo ancora le battute. Non è un caso che sia più duro, dice, e poi lo ascolteremo, due cose sostanzialmente. Attenzione, l'Italia si sta discostando dall'obiettivo, doveva migliorare il deficit dello 0,1, lo peggiora dello 0,5, e deve fare ancora più sforzi sulle riforme se vuole più flessibilità. E poi attenzione, la flessibilità che eventualmente concederemo all'Italia non può essere utilizzata per levare l'IMU. Dopo il meteo. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Per quanto riguarda la legge di stabilità dell'Italia, la consideriamo a rischio di non conformità con il patto di stabilità e di crescita. La buona notizia è che il deficit nominale continua a scendere dal 2,5% quest'anno al 2,3% del PIL il prossimo anno. Tuttavia, il deficit strutturale sta ancora deviando da quanto raccomandato dal Consiglio. Invece di migliorare dello 0,1% del PIL come previsto, è atteso un peggioramento dello 0,5%. Allo stesso tempo, l'Italia ha richiesto flessibilità su tutti i possibili capitoli: investimenti, riforme ed emergenza rifugiati. La Commissione valuterà molto attentamente queste richieste e tornerà sulla questione la prossima primavera. Dovremo infatti vedere quali ulteriori riforme strutturali porterà avanti l'Italia perché sia giustificata la flessibilità aggiuntiva, oltre a quella già accordata. Sul fronte delle riforme strutturali, dobbiamo vedere quali progetti di investimenti intende realizzare. Oggi non siamo in grado di accordare le richieste di flessibilità, ma torneremo su queste richieste la prossima primavera. A Per ciò che riguarda la situazione della tassa sulla casa, in generale la Commissione raccomanda ai Paesi membri di spostare il peso del fisco dal lavoro verso consumi, capitali, proprietà e immobili. Questo è il nostro consiglio in generale. Detto ciò, è risaputo che orientare la tassazione è compito degli Stati. Spetta a loro valutare. La questione ora è quali implicazioni di bilancio ha questa misura e come l'Italia intenda compensarne le conseguenze. E qui torniamo alla questione della flessibilità di bilancio che l'Italia ha richiesto e che dobbiamo valutare. Dobbiamo vedere quali riforme strutturali e investimenti l'Italia sta portando avanti. Ma è anche molto chiaro che la flessibilità che l'Italia invoca sulle regole di bilancio non può essere utilizzata per compensare un taglio delle tasse sulla casa. Ecco i due passaggi di No Pesaro e del vicepresidente della Commissione Dombrovskis. In cui dice, insomma, per ora l'Italia sta deviando, non solo non riduce il deficit ma lo aumenta, e dobbiamo capire, come tu già accennavi, come questi soldi verranno utilizzati per gli investimenti. E dall'altro critica, dice, attenzione, la flessibilità che eventualmente vi daremo, se ho ben capito Dino, non può essere utilizzata per la casa. Dopodiché la domanda che ti faccio è: ma come fa a sapere l'Europa se quello 04, cioè non è che quei soldi abbiano nome e cognome, cioè ti danno 0,4 di flessibilità e poi tu la usi, no? Beh sì, in effetti mi sembra un po' un gioco delle parti, necessariamente sì. Don Bronzi deve in qualche modo difendere l'impalcatura della disciplina di bilancio, ben essendo anche lui consapevole del fatto che la legge di stabilità italiana è per la metà finanziata in deficit. E giustamente, come osservi, poi quando la legge di stabilità verrà approvata definitivamente dal Parlamento sarà ben difficile capire se col deficit si è finanziato o meno il taglio delle tasse, oppure se quel taglio verrà finanziato con tagli alla spesa. Insomma, diciamo che siamo nell'ambito, come dire, delle regole che francamente in questo momento storico dell'Europa secondo me non possono che essere nuovamente ulteriormente interpretate in modo intelligente. Mi sembra un po' ridicolo che con tutto quello che accade noi ci mettiamo ancora a discutere dello 01 o dello 02. Sì, infatti. E credo che la cosa migliore sia, e questo immagino che accadrà in primavera, fa parte un po' anche della liturgia europea, diciamo. Europea, se voi l'abbiamo già vista tante volte, in primavera verrà accordata questa flessibilità, anche perché poi qualche riforma nel frattempo il governo potrà metterla in campo. Dopodiché adesso non a caso adesso parliamo della riforma della pubblica amministrazione con alcune indiscrezioni che proprio Sole 24 Ore aveva oggi, ma certo, esatto, che le riforme potranno, sì, diciamola tutta, c'è il gioco delle parti. Faccio notare appunto quando uno dice attenzione lo 0,4%, che sono appunto più o meno 8 miliardi 7 miliardi che vi daremo, se ve lo daremo ad aprile, non può essere utilizzato per la tasi. Ma ripeto, non è che le banconote abbiano nome e cognome, per cui tu sai che quei 7-8 miliardi vengono utilizzati, che ne so, per evitare le clausole di salvaguardia e non per la tasi. Sono soldi in più e basta, dai, insomma. Ma certo, poi in questo francamente credo che possa ancora essere, abbiamo necessariamente ceduto pezzi di sovranità e questo va bene, sì, però diciamo che la politica fiscale rientra ancora nei margini. Ma, sì. Ma è come dare a tuo figlio 10 euro in più di paghette, però con questi non puoi comprarti le caramelle, se vuoi comprare le caramelle devi usare gli altri 10 euro, ma come fai a saperlo? Insomma, è un ragionamento puramente di forma. Invece sulla legge di stabilità, visto che adesso poi passiamo alla riforma della pubblica amministrazione, c'è qualche novità che sta emergendo dall'iter parlamentare? Ma allora le novità principali, sì, per ora sono abbastanza secondarie, nel senso che si stanno ancora tasi per i figli, esatto, si stanno mettendo a punto dei piccoli ritocchi, ma quello che va emergendo, e credo che questo faccia pensare e ritenere che le modifiche più corpose avverranno alla Camera, è che il governo è alla ricerca almeno di un miliardo e mezzo, perché deve finanziare le misure più corpose sulle quali si sta ragionando, ad esempio il potenziamento del pacchetto sul Sud, che è una delle materie più rilevanti, come potenziare anche gli interventi a favore delle imprese. E poi lo ricordo, c'è da finanziare ancora quasi per intero il pacchetto di misure che sono state decise dal Consiglio dei Ministri per il discorso, quel famoso decreto che Renzi ha ribattezzato Happy Days, che contiene una serie di misure importanti per l'Expo, per ad esempio la Terra dei Fuochi, per dire. E quindi insomma si tratta di un percorso che è ancora in itinere. Le misure più rilevanti non sono attese in questo passaggio, ci saranno dei ritocchi, ma io penso, ribadisco, che dovremo aspettare appunto il secondo passaggio alla Camera per verificare quali saranno le modifiche più importanti. Sì, appunto, tu ricordavi già la parte per TASI, la cancellazione della TASI anche per le case date in comodato d'uso ai figli o cedute all'ex coniuge, ma solo per un immobile. E poi ci sono altre novità più piccole, ma il congedo obbligatorio per il neopapà viene aumentato a 2 giorni, che possono essere anche goduti in via non continuativa. Vabbè. L'IMU, TASI, tasse ridotte per chi affitta un appartamento a canone concordato. L'IMU, praticamente la somma dell'aliquota dell'IMU e della TASI non potrà superare 4 per 1000 se l'affitto è concordato. E poi il canone RAI in bolletta, in bolletta in 10 rate. Dico una cosa, perché tu citavi il pacchetto Happy Days, fatemi dire insomma che è vero che Renzi, quando non era ancora presidente del Consiglio, si fece fotografare col giubbotto da Fonzi, che la generazione Happy Days, vabbè. Dico che l'ottimismo serve a una leva economica, perché se cresce la fiducia crescono anche gli investimenti. Non pecchiamo, do un modestissimo consiglio al Presidente del Consiglio, non pecchiamo di ottimismo, non diciamo stucchevole, chiamare Happy Days con questo periodo in cui l'Italia ancora, parte dell'Italia non vede uno straccio di ripresa e l'altra parte vede una timida ripresa, sembra quasi un po' eccessivamente ironico. Happy Days, Fonzi o non Fonzi, grazie intanto a Dino Pesole, traffico. Focus Economia. Sunday, Monday, Happy Days. Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums. Così la dedichiamo al Presidente del Consiglio, invitandolo magari a usare, diciamo, titoli meno pop per quando si parla di manovre finanziarie. Chiamare Happy Days un pacchetto che sicuramente avrà dei benefici, e l'obiettivo è quello che dia dei benefici all'economia, ma Happy Days è un'altra storia, è un altro mondo, e sa anche un po' di presa per i fondelli, se posso dirla tutta visto che ce l'ho qua. Allora andiamo invece al prossimo tema della puntata, e mi riferisco alla riforma della pubblica amministrazione, su cui continuiamo a dire che, come con la spending review, il governo si gioca, a nostro avviso, la credibilità sulla capacità di fare riforme. Sulla spending ancora non ci siamo. Una riforma importantissima era quella del Jobs Act, e il governo indubbiamente l'ha fatta, con benefici, mi sembra che stiano diventando in dubbi, sul mercato del lavoro. L'altra grande riforma, oltre alla spending, ma che va diciamo si affianca alla riforma della spesa pubblica, è la riforma della pubblica amministrazione. Perché dico che si affianca? Perché una pubblica amministrazione più efficiente, più meritocratica, dove viene valutato anche il rendimento, dovrebbe essere una pubblica amministrazione che spende meglio. Non dico spende meno necessariamente, ma spende meglio. Scrivendo su WhatsApp per quello che ho detto sul ragionamento che fa la borsa sull'industria della difesa. Mettiamoci d'accordo una volta per tutte: se uno fa l'industria della difesa, produce aerei, droni, radar, strumenti elettronici di difesa, missili, siluri, mitragliatrici, carro armati e via così, quello si chiama industria della difesa. Poi, se a noi ci piace, per fare le anime belle, che l'industria della difesa produca brioche, diciamolo in un altro modo. Faccio notare che Francia, Gran Bretagna, Germania e Stati Uniti sono nostri agguerritissimi concorrenti. Ho detto solo che nel momento in cui tu immagini una guerra in corso con l'ISIS, è ovvio che chi va a investire investe anche sui titoli legati alla difesa. Se poi vogliamo fare in questo paese sempre le anime belle o le mezze vergini, come dicono in francese, e cioè ci piace che fatturino, che abbiano gli occupati, che acquistino quote di mercato, ma non bisogna dire che vendiamo missili, che vendiamo mitragliatrici, che vendiamo radar, che vendiamo autoblindo e quant'altro, va bene, continuiamo con l'ipocrisia così, della guerra che si fa con i tulipani. Andate a dare i tulipani all'ISIS. Claudio Tucci del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Ti sento basso, se alziamo un attimo il livello di Tucci, per favore. Allora, con te parliamo, dicevo, della riforma della pubblica amministrazione, perché se ho ben capito quanto voi scrivete, il governo starebbe mettendo a punto una norma da inserire nella riforma Madia che darebbe la possibilità ai dirigenti di licenziare i dipendenti non solo come provvedimento per un provvedimento disciplinare, ma anche in caso di scarso rendimento? In realtà questa è una norma che verrebbe semplificata dall'attuale formulazione. C'era già Brunetta, l'aveva messa. C'era già Brunetta, esatto. La Brunetta l'ha normata, ma paradossalmente l'ha resa molto più complessa. Noi stiamo parlando ancora di un'ipotesi tecnica che dovrebbe andare appunto in uno di quei decreti che citavi tu, attuativi della riforma Madia, che ancora non c'è. Quello che dovrebbe equiparare il lavoro privato, o quantomeno cercare di equiparare quello che succede il lavoro privato con il lavoro pubblico. Questa norma Brunetta in realtà sì, l'ha normata nel 2009 con una procedura molto complessa, cioè prima di licenziare, prima di intimare un atto di recesso al dipendente tra virgolette fannullone, c'era bisogno di un che si concludesse un giudizio negativo per 2 anni, ma c'era la possibilità che poi il dipendente potesse comunque recuperare in corso. Poi doveva essere fatta tutta una procedura molto complicata sostanzialmente, e quindi di fatto i numeri sono stati bassissimi. Questa norma del 2009, cioè la modifica, la codificazione del licenziamento per scarso rendimento, insomma i licenziamenti dal 2011, perché servivano i 2 anni di tempo, 12 e 13, non hanno superato i 100, insomma. Quindi no, diciamo io ho proprio il dato anche che voi ci trovate più aggiornato, ma insomma nel 2013 su 7.000 procedimenti avviati nella pubblica amministrazione. Ora, parliamoci chiaro, quando viene avviato un procedimento, di solito non è perché uno non ha niente da fare e vuole divertirsi, ci possono essere anche casi di mobbing, ci mancherebbe, però viene avviato un procedimento perché c'è qualcosa di grave, mobiliti l'ufficio del personale e avvii un procedimento. Quindi su 7.000 procedimenti avviati nella pubblica amministrazione, soltanto 219 si sono conclusi con il licenziamento, a che o veramente li hanno avviati così perché non sanno cosa fare, o di cui 100 per assenze ingiustificate, 78 a causa di reati, 35 per negligenze e inosservanze contrattuali, e poi quasi tutti concentrati nella scuola, 80 su 219, solo 7 erano i casi dei dipendenti comunali. Ora, io non voglio citare il caso di Sanremo, però che i comuni siano tutti così virtuosi, gli oltre 5.000 comuni di questo paese. Claudio, resta con noi che ne parliamo dopo il GR24, perché molti mi chiedono, ma i dirigenti chi li potrà licenziare? E qui c'è un'altra norma della riforma Madia. Dopo GR24, ricordo come sempre il 349-238-6666 per WhatsApp, SMS, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Poi parliamo anche di borsa e chiaramente, oltre che di borsa, anche del Monte dei Paschi. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Angelo, non prendere impegni per il 2 di dicembre. Che cos'altro abbiamo in agenda? Ma è possibile che devo dirti tutto io? Saremo tutti alle 20.30 all'Auditorium Gruppo 24 Ore, in via Monte Rosa 91. Per Chiedimi se sono felice live. Sì, mi ricordo, l'ho segnato sull'agenda, segnatevelo in rosso anche voi. Sarete lì con noi, avremo diversi ospiti e parleremo della felicità. Che cosa ci rende felice dei nostri amici animali e come noi possiamo rendere felici. Per ricevere l'invito della serata dovete andare sul sito di Radio 24 e compilare il forum dedicato all'evento. Ciao! State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. 18 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Claudio Tucci, dicevamo dell'ipotesi, o meglio della norma, che il governo starebbe mettendo a punto nella riforma Madia della pubblica amministrazione, la possibilità ai dirigenti di licenziare i dipendenti. La novità, come tu spiegavi, è che questa possibilità riguarderebbe non solo i procedimenti disciplinari, ma anche il caso di scarso rendimento, in cui si aprono svariate ipotesi. Ci chiedono molti ascoltatori chi però licenzia i dirigenti. In realtà questa infatti è una domanda calzante, questa doveva essere la prima delega della riforma Madia che doveva arrivare, in realtà sta slittando, adesso il sottosegretario qualche giorno fa l'ha annunciata per dicembre. In realtà ecco, il dirigente dovrebbe, secondo le linee guida fissate appunto nella delega Madia, ruotare dopo 4 anni più 2, ci dovrebbe essere una commissione unica di valutazione delle performance che è ancora istituenda, cioè dovrà essere istituita presso la funzione pubblica. Visto che prima tu citavi giustamente la scuola come uno dei settori, tenete conto che i dirigenti scolastici, che sono i presidi, in Italia non sono ancora valutati. La circolare che dovrebbe prevedere la valutazione di questo segmento della dirigenza comunque pubblica è ancora in gestazione del Ministero. Tutto questo cosa comporta? Che i presidi ricevono una retribuzione di risultato così e a pioggia, indistintamente, senza alcun criterio. Non devo dire, purtroppo, non solo i presidi, abbiamo raccontato moltissime volte come nella stragrande maggioranza dei casi le amministrazioni pubbliche centrali, ma anche quelle locali, regionali, comunali e quant'altro, premino tutti i dirigenti per aver raggiunto l'obiettivo. Abbiamo raccontato cose anche pazzesche, saper utilizzare non mi ricordo più in quale amministrazione, saper utilizzare la mail era uno dei motivi per cui si beccava il bonus, no? Magari anche riuscire ad arrivare al lavoro in orario, cioè, abbiamo letto pure quella, cioè il rispetto dei tempi era uno dei motivi per dell'orario era uno dei motivi del bonus, ma quello è uno dei motivi per non essere licenziati, non per beccare un bonus, abbi pazienza. Lo dico in maniera molto chiara, se si vuole fare una riforma della pubblica amministrazione credibile, attenzione a non fare i forti con i deboli e i deboli con i forti, quindi a introdurre il procedimento di licenziamento anche per scarso rendimento per i dipendenti se prima non hai introdotto le norme di valutazione dei dirigenti, perché non sei credibile se no. Voglio dire, anche la riforma prevede, dovrebbe prevedere, che uno non sia dirigente sempre, solo quando esercita la funzione, altrimenti appunto rotazione. Però faccio solo notare che sta slittando. Ora, doveva tutto arrivare a ottobre, non è arrivato. Arriverà a dicembre, come tu anticipi, speriamo. Non è sottosegretario, le parole di Rughetti, quindi. Esatto, non è un dramma se arriva a dicembre, l'importante è che arrivi sta riforma della pubblica amministrazione, altrimenti tutto il resto sono chiacchiere e distintivo. Grazie anche a Claudio Tucci, ha ragione l'ascoltatore che mi dice: guardi che i comuni in Italia sono 8.000, ha ragione, ho detto 5.000 e mi sono sbagliato, chiedo venia e passiamo al prossimo tema, ossia la borsa. Non lo so, lo dico chi scrive su WhatsApp e agli SMS al 349-238-6666, non lo so se il governo ce la farà oppure no a fare la riforma. Se uno va a vedere la legge di stabilità, visto che è una legge di stabilità molto, molto elettorale, diciamo così, uno può pensare che per motivi di consenso tu non vada a toccare la pubblica amministrazione veramente. Io spero di no, io spero invece che il governo vada avanti nella riforma della pubblica amministrazione in maniera più efficiente, a nostro avviso, lo dicemmo, ma lo pensa anche una persona come Ichino, come Piero Ichino. Il Jobs Act andava esteso anche alla pubblica amministrazione, poi uno dice no, ma lì entrano per concorso, ho capito, ma non è che siccome entri per concorso a quel punto non riesci più a essere valutato e diventi de facto licenziabile. Così come mi auguro che il governo invece vada avanti, o meglio riprenda il tema della spending review e della lotta all'evasione fiscale, sono tutte cose che si tengono. Tu puoi ridurre le tasse se combatti l'evasione fiscale e se spendi un po' meno come pubblica amministrazione, non sugli stipendi ma soprattutto sugli approvvigionamenti. La borsa, oggi le borse festeggiano il prezzo del petrolio basso e l'euro basso a 1,0633 ancora, adesso vi vede quasi quota 1,05. più 2,30% Milano, più 2,80% Parigi, più 2,40% Francoforte, più 2% Londra, l'America più 0,60%. Bene i titoli legati al settore difesa in tutta Europa, lo dico, non voglio tornare sulla polemica, è chiaro che si fa un ragionamento, viste le possibilità, anzi le altissime possibilità che venga inasprito il conflitto con i terroristi dell'ISIS. Paolo Paronetto, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, Finmeccanica e poi il resto, più 5,40. Sì, Finmeccanica, come dicevi tu, è proprio un ragionamento sul settore difesa in vista delle probabili e in qualche caso annunciati ma nuovi maggiori investimenti nel settore, proprio alla luce degli attentati. Sì, di anche Parigi. Sull'intelligence, che non vuol dire solo cannoni, missili, vuol dire anche la capacità. Finmeccanica è una divisione importante di quella che si chiama elettronica per la difesa, perché non è solo l'arma in senso certo. Stretto. Prego. Finmeccanica più 5,43, ma anche in tutta Europa, a Parigi, Airbus, che anche qui una divisione, più 4,27, e Thal più 3,56 e a Londra Bay Systems più 1,96%. E tutti questi titoli si sono messi in luce fin dall'avvio e sono stati tra i migliori in tutta Europa per tutta la seduta. Invece non c'entra nulla con la situazione del terrorismo, Buzzi Unicem più 4,20%, segnalo che anche Prismia, l'ex Prelicavi va bene, più 4%, Eni più 3,5%, Atlantia più 3,5% anch'essa, il 3,20% lo guadagna Mediaset, ma anche Ferragamo e Tenaris, il 3% il rialzo di Generali, il 2,70% quello di Mediolanum. Poi c'è Fiat Chrysler che guadagna il 2,60% come Steam Microelectronics, il 2,5% lo porta a casa Enel, ma anche Anima Holding, Iux Net-a-Porter più 2,30, il 2%, il 2,20 lo guadagna Unicredit e Unipol, il 2% Telecom Italia e UbiBanca, e il Banco Popolare anche, e negativa Monte dei Paschi dello 0,50%. Allora dicevamo Buzzi Unicem, ma anche Fiat, visto che oggi sono arrivate le immatricolazioni europee e Fiat va meglio della media del settore, nel mese di ottobre più 7,7% per quello che riguarda il gruppo Fiat. Vai Paolo. Sì, per quanto riguarda Buzzi, in questo caso c'è un giudizio positivo degli analisti di Exxon BNP Paribas legato all'esposizione negli Stati Uniti del gruppo. Negli Stati Uniti è previsto un incremento dei margini nel business del cemento e quindi per le società appunto esposte nell'area potrebbe questo guidare la crescita degli utili nei prossimi anni. Per quanto riguarda invece Fiat Chrysler, come dicevi tu, più 7,7 in matricolazioni in Europa e nel mese di ottobre il mercato ha fatto più 2,7% e quindi la quota di mercato di FCA è salita al 6,2% dal 5,9% del mese scorso. Il titolo Fiat Chrysler ha quindi chiuso in rialzo del 2,65%, mentre Buzzi, di cui parlavamo prima, ha fatto più 4,2%. Ancora vedo parecchi messaggi, dunque adesso parlerò anche dei contratti della pubblica amministrazione bloccati da 6 anni. Andiamo avanti con la borsa e poi arriviamo anche lì. Vorrei chiudere con Telecom Italia, perché Vivendi oggi ha precisato la sua posizione, ha detto che ha il 20,1% e nessun titolo risparmio. Telecom sale un po' meno dell'indice oggi. Sì, diciamo che Telecom è stata per tutta la seduta pure in rialzo, ma comunque meno della media, anche se sul finale è accelerato, ha chiuso a più 2,09%, quindi appena sotto l'indice. E come dicevi tu, Vivendi ha precisato di non aver avuto contatti col finanziere Xavier Niel e inoltre appunto di non avere titoli di risparmio e quindi non si prevede un incremento della sua partecipazione dopo la conversione dei titoli di risparmio, quindi questo almeno sul breve termine ha spento un po' la speculazione. Inoltre anche qui Exxon BNP Paribas ha tagliato le stime sugli utili dicendo che il titolo comunque già incorpora tutte le possibili notizie positive in arrivo e quindi i mercati diciamo che hanno preso un attimo una pausa comprando il titolo, ma sì, ma in linea con quanto è salito l'indice. Monte dei Paschi, adesso ne parleremo per la vicenda della magistratura, meno 0,50%, c'è un motivo particolare per cui l'unico titolo bancario negativo sia Monte dei Paschi o no? No, diciamo che in questo momento sui bancari il tema principale è quello del rischio, MPS al momento è ancora non è ancora coinvolto direttamente, non se ne parla se non come possibile salvataggio e quindi diciamo che in questa fase il titolo è un po' penalizzato rispetto agli altri. Gala più 13,50, Worldspace più 11,80, Bio2 più 9,80, i migliori, i peggiori. Cerved meno 4,90, Novare meno 4,30, primi sui motori meno 4% come Softec. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Corriere Sole 24 Ore. Grazie a voi. Allora, perché non cita i contratti della pubblica amministrazione bloccati da 6 anni? Ho capito, però diciamola tutta allora. I contratti della pubblica amministrazione è vero che sono bloccati da 6 anni, è anche vero che la pubblica amministrazione non ha avuto un licenziamento dovuto alla crisi, non ha avuto ha avuto il blocco del turnover, ma nessuno ha licenziato nella pubblica amministrazione, e tutta questa crisi e il record di disoccupazione si è scaricato sul settore privato. Quindi è vero che la pubblica amministrazione non ha avuto aumenti contrattuali e ha avuto il blocco del turnover, è anche vero che fortunatamente lì non si sono scaricate le recessioni economiche di questi anni, si sono scaricate tutte sul settore privato. Quindi, se vogliamo dirla, diciamola tutta, altrimenti il giudizio è parziale oltre che di parte. Traffico. Focus Economia. minuti, mi scrive un ascoltatore su WhatsApp: ma lei trova giusto che un operatore che lavora in ospedale, reparto medicina, lavorando anche sabato e domenica, prenda solamente 1200 euro al mese? No, non lo trovo giusto, ci mancherebbe. Ho solo detto che se si dice che gli stipendi della pubblica amministrazione sono bloccati da 6 anni, bisogna anche ricordarsi cosa è successo nel settore privato, dove gli stipendi non solo si sono bloccati, ma sono proprio saltati, visto che siamo passati da una disoccupazione che era tra il 7 e l'8% a una disoccupazione al 12%, e la disoccupazione, ahimè, così come la cassa integrazione, si è scaricata tutta sul settore privato, non sul settore pubblico. Io capisco che la tentazione sia di vedere ognuno il proprio particolare, però guardiamo la fotografia nel suo complesso. Sara Monaci del Sole 24 Ore, buonasera. Sì, buonasera. Sara, dobbiamo tornare su una vicenda molto dolorosa. Era, come dimenticarlo, era il marzo, il 6 marzo del 2013, quando in pieno scandalo Monte dei Paschi, già esploso, volava dalla finestra del suo ufficio nella sede centrale del Monte dei Paschi a Siena, Rocca Salimbeni, il capo della relazione esterna, che è responsabile della comunicazione, che chiaramente conoscevamo molto bene, e mi riferisco a David Rossi. Si parlò fin dall'inizio di suicidio, la famiglia, la moglie avanzò molti dubbi, c'erano delle cose strane, biglietti lasciati, nessuno aveva avuto la sensazione di un suicidio, non si capiva il motivo di questo suicidio. La novità di oggi è che il procuratore della Repubblica di Siena, Salvatore Vitello, in accordo con il sostituto Andrea Boni, ha deciso di riaprire le indagini sulla morte di David Rossi, ipotizzando, se ho ben capito, che possa essere stato ucciso da almeno due persone. Sulla base di quali elementi? Allora, bisogna dire ovviamente che l'inchiesta era stata archiviata, e questa archiviazione ha avuto molti contrasti da parte della moglie. Dobbiamo anche ricordare un'altra amara vicenda: la moglie stessa era stata indagata per estorsione nei confronti della banca, proprio perché aveva insistito a ritenere che ci fossero state delle verità nascoste. Questo arriva un po' come un colpo di scena, che però dobbiamo sottolineare arriva proprio quando nella procura di Siena c'è un cambio al vertice e c'è un nuovo procuratore. I nomi infatti che si occuperanno di questa nuova inchiesta non sono gli stessi che si occupavano dell'inchiesta due anni fa. Cosa ci vuoi dire con questo, Sara? Voglio dire in qualche modo che questo, avendo seguito la vicenda, che non faccio fatica a ritenere, è una supposizione, che dietro questa riapertura ci sia anche in qualche modo una diversa visione tra procuratori. Non voglio parlare di chiaramente guerre tra procuratori, che esistono, ne abbiamo viste, non ho ancora ragione per dirlo, però evidentemente l'arrivo di un nuovo procuratore capo e di un nuovo procuratore fa riaprire la vicenda che era stata archiviata più di un anno fa, quindi diciamo anche un modo probabilmente per togliere dei problemi dalla procura, perché effettivamente l'opinione pubblica senese aveva ritenuto che questa inchiesta, secondo me in parte anche in ragione, fosse stata avviata troppo velocemente, non perché ci fossero veramente secondo me ragioni per ritenere scontato un omicidio, ma perché evidentemente molte prove potevano essere raccolte meglio. Faccio un esempio banale di cui si è parlato poco, sappiamo tutti tutti che gli uffici interni hanno delle videocamere, ecco, non furono chieste in tempo e furono distrutte le riprese interne, quindi soltanto la parte esterna era stata ripresa, che registra anche la caduta di David Rossi. Per carità, ma è tutto, parte... tutto esatto, però mettiamo in questo paese in cui purtroppo siamo abituati, nella storia anche recente di questo paese, è un po' strano, scusatemi, che tu devi indagare su uno che vola da una finestra, non ci sono elementi, perché sì, fino all'inizio dicevamo boh, ma come mai non lascia un biglietto? Gli elementi, diciamo, del suicidio esistevano, perché anche parlando con i suoi amici e comunque e vedendo anche lui, conoscendolo, come tu sai, la depressione chiaramente dopo la perquisizione, lui era molto legato a Musser, era chiaramente molto palese. C'erano degli elementi assolutamente incongruenti che meritavano comunque un approfondimento, anche solo per sì, far pensare la, io appunto, dico sempre in questi poi... casi la moglie ha sempre sostenuto, ma io non ho una risposta, sì, dico solo, la moglie certo, ha sempre sostenuto, attenzione, certo, non, secondo me non si può essere suicidato, non era nel suo carattere, non era nel suo atteggiamento. Ora uno alla moglie lo ascolta in questi casi, e invece tu neanche vai a guardare quello che dicono le telecamere interne. Sì, interessante questo, c'è un bambino di prima elementare, probabilmente ne sa di più. Sì, boh, beh, fu assolutamente una procura superficiale di fronte a questa inchiesta, che evidentemente aveva come focus un'altra questione, quella della maxi acquisizione Anton Veneto, e quindi fu liquidato come un suicidio dovuto ad un'inchiesta, a depressioni che erano anche tutte calcolabili, anche, ma scusami, ma è vero che vi sarebbero negli elementi portati per aprire inchiesta dagli avvocati della moglie, vi sarebbero anche alcuni referti di ematomi, lesioni al... Beh, questo, guarda, ne abbiamo parlato per, in realtà già l'inchiesta, al di là di quello che era in procura, era già, diciamo, chiacchierata tra noi giornalisti, avendo seguito per molto tempo l'inchiesta. Già da un anno e mezzo si parlava di questi elementi, che poi oggi sono, diciamo, la parte forte, ciò che fa pensare che meriti comunque un approfondimento ulteriore. Uno è questa, appunto. Si parla di una serie di ematomi che potrebbero far pensare ad una colluttazione, ad uno scontro fisico avvenuto prima di questo presunto suicidio. L'altro elemento è la dinamica della caduta, ovvero se David si fosse veramente, come è stato detto finora, gettato all'indietro, insomma, con la schiena rivolta verso il vuoto, ci sarebbe stata una rotazione, poniamo quella che conosciamo tutti, non so, di quando andiamo indietro nell'acqua. Comunque si immagina che per questi tre piani il corpo avrebbe dovuto roteare, e quindi la caduta doveva essere diversa, cioè il corpo sarebbe dovuto essere non supino, ma con la pancia rivolta verso il pavimento, strada. Questa idea rotatoria, ecco, quindi si dice, se è stato ritrovato così, evidentemente perché qualcuno lo ha sostenuto per i piedi e poi lasciato cadere, quindi non si immagina un movimento rotatorio volontario. C'era anche un altro elemento, appunto, che non emerge in questo momento, sì, ma che vi aggiungo, era il fatto che ci fosse comunque un oggetto filmato non precisato dalle telecamere esterne. Si era per molto tempo parlato della possibilità che fosse l'orologio, che in effetti non era stato trovato nel polso di David, ma più là. C'era stato detto che una caduta del genere si possono perdere dei pezzi, però sembrava che quella traiettoria fosse un oggetto rimasto impigliato e poi fatto cadere in un secondo tempo. Non è stato mai chiarito se poi quell'oggetto fosse davvero un orologio. Devo dire che adesso noi non conosciamo, però la cosa incredibile è che nessuno abbia pensato a guardare i filmati interni della banca. Questo obiettivamente si giustifica molto male, mettiamo così, quantomeno se sei superficiale andresti richiamato per questo. Non so se pensare solo a un atto di superficialità. Comunque, grazie a Sara Mona, ci vedremo dove porterà l'inchiesta. Da Sebastiano Berizzoni un augurio comunque di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.